Effetto neve. Effetto neve con Massimo Di Scienza. E con Luca Rinaldi in redazione, Roberto Scaltritti in regia, alle 16.36 minuti. Buona domenica, amici di Radio 24. Buon pomeriggio, ultimo numero di Effetto Neve per la stagione 2010-2011, perché, come diceva anche Carlo Getta, è finita la Coppa del Mondo di sci con le finali di Lance Ride, tra mille polemiche, il maltempo, ma con un raggio di sole, la vittoria di Giuliano Razzoli nello slalom di ieri. Di questo parleremo nella seconda parte però del programma. Nella prima ci concentriamo sull'avvincente e discutibile e discusso finale della Coppa del Mondo di sci femminile. Lo facciamo con i nostri ospiti che ci aiuteranno un po' a capire come è andata nelle finali di Lance Ride, se è stato giusto assegnarla così la Coppa del Mondo di sci o no, e qual è il bilancio di questa stagione in rosa. Per dovere d'ospitalità parto da Marisa Poli, inviato della Gazzetta dello Sport. Buona domenica, buon pomeriggio Marisa, grazie per essere con noi. Grazie Marisa. Poi una voce ormai conosciutissima e amatissima dal pubblico di Radio 24, Elisa Calcamugi, inviato di Sky Sport. Ciao Elisa, ben ritrovata. Buon pomeriggio a tutti. E poi concludiamo con Gianmario Bonzi, che troveremo tra qualche istante, il commentatore, la voce di Eurosport per la Coppa del Mondo di sci femminile. Allora Elisa Calcamugi, com'è andata a Lance Ride? Per chi si fosse perso in settimana, visto che purtroppo le notizie che ci hanno raggiunto in questa settimana sono state importantissime e non belle, per chi si fosse perso il finale della Coppa del Mondo di sci femminile, com'è andata? Chi ha vinto tra la Risch e la Von? Il duello Risch-Von è finito con la Risch che ha vinto con 1728 punti, ma la Von era lì a 3 punti di distanza, quindi 1725. Non è la prima volta che si chiude la stagione femminile con soli 3 punti di distacco, era già successo nel 2005 tra Persson e Kostelic. Però quello che ha lasciato un po' l'amaro in bocca alla Von è stato il fatto che in realtà le Lance Ride si sono potute disputare solamente due gare, che sono state la discesa libera e lo slalom speciale. Tutto il resto del programma è saltato a causa del brutto tempo, e quindi secondo la Von è stata un po' un'ingiustizia il fatto di vedersi così sfuggire quella che doveva essere la sua quarta Coppa del Mondo consecutiva in questo modo, cioè senza gareggiare. Questa frase è stata un po' una scintilla, perché la Von e la Risch sono amiche, almeno dicono di essere amiche da molto tempo. Il fatto invece che ieri, nel momento in cui la Risch è salita sul gradino più alto del podio e ha salutato le altre due ragazze presenti con lei, quindi Von e Mase, la Von non le ha neanche detto anche solo un bravo o un commento, ha preferito stare zitta dicendo sono troppo delusa. Però chiaramente la Coppa del Mondo si gioca durante una stagione intera, le gare iniziano ad ottobre e finiscono a marzo, e la Risch ha sempre dominato, ad eccezione di un momento a dicembre nella quale è stata lei, la Von, davanti in classifica generale, e adesso a Lance Ride nella gara dello slalom, dove dopo la discesa era davanti la Von, ma altrimenti è stata veramente la Risch la protagonista. Quindi diciamo che comunque sia, è vero, un peccato che le gare non si siano potute disputare, però è anche vero che la dominatrice della stagione è stata la Risch. Marisa Poli, giusto così, dunque la vittoria ha sorriso alla più forte, o anche a te è rimasto un po' di amarezza per non aver visto concludere su pista poi il duello con l'ultima gara? Io sono d'accordo con Elisa, credo che Maria Risch si sia meritata ampiamente questa Coppa del Mondo, ha avuto una vittoria in meno rispetto all'avversaria, ma è salita sul podio in tutte le specialità. Lo sci purtroppo dipende dalle condizioni esterne, è già successo che altre gare siano state rinviate, ricordo per esempio lo slalom e il gigante di Maribor, dove per esempio Maria Risch avrebbe potuto prendere più punti. La FIS ha deciso che le gare delle finali non possono essere rinviate, non possono essere ripetute, perché altrimenti quale gara delle tre annullate si doveva fare? Chi avrebbe scelto la gara che magari poi avrebbe assegnato una Coppa del Mondo? Le condizioni sono queste per tutte. Certo, perdere di 3 punti è durissima, è successo a Rijke Kosvindal un paio d'anni fa, quando i punti furono solo 2, però credo che Maria Risch se lo sia meritato. Non c'è dubbio, però Marisa, rimane un po' l'amaro in bocca nel vedere poi oggi, in una giornata che comunque tecnicamente poteva essere valida per un recupero, tu dici giustamente, e allora perché non recuperare anche le altre che sono state rinviate? Però insomma, in questa situazione assolutamente particolare, con una coppa così importante alla fine di una stagione così lunga ed emozionante, però vedere scendere una gara sostanzialmente, cioè atleti in gara per una gara sostanzialmente inutile, no? Come il team event che insomma è già qualche anno che si fa, però secondo me non aggiunge assolutamente nulla alla stagione. Non si poteva trovare un'altra soluzione, secondo te? Questo è stato deciso una decina d'anni fa, quando furono fatte le finali di Sestriere e fu annullato un gigante proprio nelle finali, e si decise da lì di non rifare più, cioè di non recuperare l'ultima gara anche nell'ultimo giorno, proprio per questa cosa. Cancellate due gare, cosa si recupera? Il Super G che era più favorevole alla Von, o il gigante che magari avrebbe aiutato di più Maria Rich? Diventa veramente una decisione scomoda. Si può decidere dall'anno prossimo che invece si fa, però se la regola è non si recupera, la regola deve essere applicata. Gianmario Bonzi, voce di Eurosport per la Coppa del Mondo di sci femminile, ecco qui ci ha raggiunto anche Gianmario. Stiamo discutendo sul finale così tutto sommato particolare di questa stagione. Anche a te la domanda che ponevo a Elisa e a Marisa Poli: giusto così, ha vinto la più forte, o secondo te questa Coppa del Mondo poi alla fine poteva andare a finire in mano diversa, in condizioni atmosferiche differenti? Ma guarda, secondo me la discussione su chi è più forte tra Rich e Von è un po' fine a se stessa, nel senso che sono separate da tre punti, è vero, 1728-1725, ma da quattro stagioni la Von, da tre la Rich, superano tutte e due più di 1400 punti in Coppa del Mondo. Di fatto sono le più forti loro due, solo che la Coppa non si può dividere, e quindi a quel punto lì una deve vincere. Secondo me alla fine è stato giusto così, semplicemente per un motivo: la Rich è stata in testa quasi, quasi sempre, dall'inizio alla fine. Semplicemente fine dicembre è stata avanti la Von, e poi per un giorno alle finali di Lance Ride. Quindi di fatto Rich è stata molto più avanti rispetto alla Von nella classifica, con molti più giorni in testa, ecco. E quindi secondo me per questo piccolissimo motivo è giusto che abbia vinto la Rich. Però ovviamente si tratta di due campionesse che hanno vinto titoli mondiali, titoli olimpici, coppe di specialità, coppe generali, per cui insomma sono entrambe fortissime, straordinarie. Da Elisa, da Marisa Poli e anche da Gianmario, un voto alla stagione delle italiane. Ricordiamo: miglior piazzamento, il secondo posto di Federica Brignone in gigante a Svizzel, e il secondo posto di Denise Carbon in gigante a Splindrum Mlin, e poi un altro podio, quello di Manuela Mölg in gigante sia a Sölden che a Zagabria. Elisa, soddisfatti per questa stagione della Valangarosa oppure no? Beh, io direi di sì. Forse l'unica disciplina nella quale siamo proprio mancati è stato lo slalom femminile, ed insieme al gigante maschile saranno poi i due settori dove i tecnici vogliono lavorare per la stagione prossima. Per il resto in gigante Brignone e Mölg, con una Carbon che è arrivata adesso a fine stagione perché ha dovuto recuperare dall'infortunio, siamo assolutamente competitivi, anzi a veder scendere la Carbon oggi nella prova a squadre eravamo quasi rammaricati che la stagione dovesse finire un po' come è successo con Razzoli nello slalom di ieri. Per quello che riguarda le discipline veloci ci sono le solite conferme, perché abbiamo la Elena Fanchini insieme alla Dada Merighetti che sono sempre rimaste fra le migliori. È vero, non hanno fatto un acuto da podio, ma sono sempre nelle prime 15. Poi c'è stato l'inserimento della giovane Elena Curtoni, quella è una bella speranza. L'anno prossimo aspettiamo il ritorno di Nadia Fanchini, quindi secondo me comunque è stata una bella stagione. Poi chiaramente con la medaglia ai mondiali di Federica Brignone, lei è giovane e vuole piano piano poi avvicinarsi anche ad altre discipline. Io direi che stiamo sulla strada giusta. Bicchiere mezzo pieno dunque. Marisa Poli. Anch'io la penso come Elisa, forse è mancato qualche acuto nella velocità, però in una stagione senza Nadia Fanchini, che nelle ultime stagioni di fatto aveva trascinato discese Super G, ci può stare. Il gigante femminile rimane davanti a tutte le altre. Abbiamo avuto l'argento di Federica Brignone ai mondiali, come ricordava Elisa, però ricordiamo anche che la Denise Carbon è arrivata quarta, Manuela Mölg sesta, c'è un risultato di squadra straordinario. Sullo slalom bisogna lavorare. L'anno scorso tra le più forti c'era la Carbon, che quest'anno proprio in slalom in allenamento si è fatta male. Sembra che dietro per ora non si vedano grandi ricambi, forse questa è la specialità che preoccupa di più. E Gianmario, anche tu sei insomma sulla stessa linea di Elisa e Marisa Poli, anche per te è stata una stagione comunque positiva, comunque da salvare positivamente? Oh, guarda, io ti individuo molto velocemente tre note positive e tre note negative. Vai. Positive: il recupero di Denise Carbon, la crescita delle giovani Brignone, Curtoni, Elena e Massaglia, anche Agerer che sta arrivando, e la continuità a livelli discreto barra buoni di Schnarzo, Fanchini, Merighetti per tutte e tre miglior stagione in carriera, nel senso che è quella in cui hanno fatto più punti rispetto al passato. Negativi, il podio solo nelle discipline tecniche, quindi non è in discesa in Super G, la mancanza di ricambi in slalom e la vittoria che manca dal 7 dicembre 2008, vittoria in Coppa del Mondo per le donne. In generale però sì, secondo me un voto tu chiedevi, io credo che un 7 si possa dare alle ragazze. E con questo voto chiudiamo la prima parte di Effetto Neve, grazie a Gianmario Bonzi, telecronista di Eurosport. Buona estate Gianmario, ci ritroviamo per la Coppa del Mondo 2011-2012, grazie anche a Marisa Poli, inviato della Gazzetta dello Sport. Restate su Radio 24 perché adesso c'è una grande sorpresa, prima il traffico. Effetto Neve. Effetto Neve. Prendetevi per un sempliciotto, ma parlare seppur al telefono con un olimpionico a me dà un'emozione straordinaria. Giuliano Razzoli, buon pomeriggio e benvenuto su Radio 24. Buon pomeriggio a voi. E grazie per essere con noi, ti abbiamo inseguito per un po', però alla fine l'ultima puntata ci ha sorriso, siamo riusciti ad averti con noi in diretta. Con noi c'è anche... Sto andando a casa adesso da Lenzerheide. E quindi hai sentito anche le condizioni del traffico, vedi, ti abbiamo dato la possibilità di conoscere quello che troverai sulla A1, immagino, poi, esatto, fino all'uscita, esatto, di Reggio Emilia, da quelle parti lì. Con noi ancora Elisa Calcamugi, inviata di Sky Sport. Elisa, a te il piacere di salutare Giuliano e di, insomma, chiedergli un commento sull'impresa di ieri. Elisa. Beh, assolutamente complimenti, io più che una domanda potrei dirgli finalmente abbiamo visto Razzo. Grazie Elisa, ciao. Ciao. Beh sì, dai, finalmente, purtroppo la forma è arrivata un po' tardi, ma è arrivata ancora in tempo per l'ultima gara, dai. Come mai è arrivata così tardi, Giuliano? Dopo i mondiali hai deciso di rimetterti a lavorare sodo, no? No, diciamo che il lavoro grosso l'ho fatto prima, dopo i mondiali ho deciso di fare un po' più tranquillo, di stare un po' più tranquillo, perché comunque sia dopo l'infortunio quest'autunno ho lavorato tanto per recuperare, e però purtroppo insomma le sensazioni buone le ho avute solo nelle ultime settimane, dove comunque mi sono anche riposato di più. E così insomma, noi lo sci è uno sport un po' strano, non sempre va come uno vorrebbe, anche il fisico, che è la nostra macchina, non sempre funziona come uno vorrebbe. In queste ultime settimane, già da due giorni prima di finire gara, ho iniziato a sentire le sensazioni buone e finalmente qua sono riuscito a esprimerle in gara. Sei rimasto male per la delusione di Garmisch, immaginiamo, è stato un brutto colpo. Cosa vuole, no? Diciamo che ci sono ben abituato, non è che uno può sempre vincere, o anzi, di solito nello sport bisogna sempre cercare di mettersela tutta, io l'ho fatto e quindi non ho rammarichi, ma semplicemente ero dispiaciuto perché ci puntavo quella medaglia, ma abbiamo guardato avanti come ho sempre fatto e sono tornato a vincere in Coppa, che era una cosa molto importante per me, per la prossima stagione. Insomma, questo risultato mi dà molta fiducia e quindi diciamo che ho finito in bellezza e non potevo chiedere di più. Elisa Calcamugi. No, io posso solo dire che è vero che a Garmisch comunque Giuliano ci aveva detto: guardate che io, essendo stato fermo un mese per colpa dell'infortunio alla mano, sarò in forma a fine stagione, facendo i calcoli su quello che gli era successo lo scorso anno a Vancouver. Per cui diciamo che ciò significa che si conosce molto bene e questo è importante proprio in previsione delle prossime stagioni, e lui per sé come atleta vuol dire che sa come sta andando, sa su che cosa sta lavorando. Quindi io sono contenta di aver visto un atleta maturo che è riuscito, nonostante un periodo non facile, a non arrivare, non dico alla disperazione, ma comunque a buttarsi giù di morale o a mettere in crisi tutto quanto. Abbiamo visto Van Hell quest'anno che non è riuscito a tirarsi fuori dalla crisi nella quale è finito. Invece io voglio proprio fare i complimenti a Giuliano per il fatto che sia riuscito ad andare avanti, a non ascoltare le polemiche, a tutti quelli che avevano criticato certe scelte che lui ha fatto il suo, ha lavorato con Teollier, sapeva di essere in ritardo, l'aveva detto, e infatti l'ha dimostrato, che poi è riuscito a mettere di nuovo il 4x4. No, infatti io purtroppo la mia paura è quella, anche se doveva diciamo bastare la forma che avevo a febbraio per portare a casa qualcosa, però diciamo che non è mai facile avere la fiducia o partire per vincere quando sai che non sei a posto del tutto. semplicemente insomma le cose non andavano mai bene, però non mi sono arreso e sentivo che ogni settimana era un po' meglio e infatti ho detto sicuramente arriverò in forma a fine marzo, speriamo in tempo per l'ultima gara, insomma è arrivato e è stato così. Quello è sicuramente positivo per me, e poi comunque vincere in Coppa del Mondo è sempre bellissimo e insomma mi auguro di farlo ancora. Giuliano, tu posso chiedere come una no, prego Elisa. Ancora, visto che l'anno prossimo è l'anno tra virgolette tranquillo, non ci sono i mondiali, non ci sono le Olimpiadi, non è che guardando Kostic con quella coppetta di slalom magari gli sono venuti in mente degli obiettivi per la stagione 2012? Ma la coppetta di slalom sicuramente sarebbe bello, devo lavorare bene senza intoppi quest'estate in autunno, cercarla, trovare un po' più di continuità che mi è mancata quest'anno, essere diciamo già competitivo inizio stagione e portarla fino alla fine, insomma ci proverò, io in questi ultimi anni ho lavorato tanto e bene, diciamo che ha sempre pagato, vedremo quest'altra cosa succederà, ma comunque sia sarebbe bello giocarsela. Giuliano Ravetto, il direttore tecnico della Nazionale, diceva che proverai a lavorare duro anche sul gigante. Quanta voglia hai di impegnarti anche sul gigante e diciamo quanta convinzione hai di ottenere poi i risultati straordinari anche lì? Ma la voglia c'è, perché proprio penso di, insomma, scio bene, quindi voglio allenarmi di più. La convinzione di ottenere risultati non è che arriva così, diciamo che uno arriva pian piano se vedo anche dei risultati in allenamento. Aspetti un riscontro, quindi, certo. Esatto, quindi io mi cercherò di allenare, però senza impegnandomi, come sempre, e poi se arriva dei risultati buoni e delle sensazioni buone in allenamento, allora si potrà guardare avanti, se no, insomma, con tranquillità vedremo. Un'ultima domanda flash a Elisa Calcamoggi, poi dobbiamo salutarci. Elisa. Adesso in questo momento mi trovi spiazzata perché stavo ascoltando quello che diceva, mi stavo immaginando la sciata di Giuliano in gigante, però devo dire la verità, non l'ho mai visto, quindi stavo cercando di immaginarmi che cosa potrebbe fare l'anno prossimo, però insomma lo saprà lui, ecco. Non c'è dubbio. Allora Giuliano, noi approfittiamo per farti ovviamente l'in bocca al lupo, che sia un'estate, una primavera, un'estate serene, di allenamento proficuo, e vogliamo vederti in forma già a partire dalle prime gare della prossima stagione. Grazie e complimenti. Grazie a Giuliano Razzoli. Grazie, ciao. Buona domenica. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Un saluto anche ad Elisa Calcamuggi, che ha condiviso con me questa bella fatica di Effetto Neve, queste puntate che ci hanno accompagnato fino al termine della Coppa del Mondo. Elisa, grazie ancora. E grazie ci a voi, è stato un piacere. Ci risentiamo per l'inizio della prossima stagione, ovviamente ce lo auguriamo. Grazie a tutti coloro i quali ci hanno voluto seguire in questi mesi. Le 16:56 minuti, adesso Carlo Genta per gli aggiornamenti sul calcio. Ciao, alla prossima. Effetto neve. Effetto neve.